Sono le 13. GR24, il sole 24 ore. Oggi alle 15 Tremonti presenta la manovra, Marcegaglia, taglio, diventiamo come la Grecia. I prezzi di luce e gas in Italia sono i più alti d'Europa. Censis per i giovani dipendenti meno di 1000 euro di pensione. Rubi, la consulta mette il conflitto fra le Camere e la magistratura. Buona giornata dalla redazione di GR24 da Maria Piera Ceci. In primo piano la manovra del governo. Per le ultime novità in diretta da Roma, Vincenzo Miglietta. Sì, buongiorno. Manovra economica che continua a presentare sorprese. Ieri la marcia indietro di Berlusconi sul cosiddetto lodo Mondadori, oggi l'apertura del ministro del welfare Sacconi sulla previdenza. Siamo pronti a modifiche sulla norma relativa alla rivalutazione parziale delle pensioni, ha annunciato il responsabile del welfare. Le fasce più basse sono indicizzate al 100%, ha spiegato il ministro, si tratta di guardare alle fasce medie e alte. Ma non dimentichiamo, ha aggiunto Sacconi, che norme di questo tipo sono state fatte da tutti i governi di centrosinistra. Se ne saprà comunque di più nella conferenza stampa del pomeriggio con tre Monti, lo stesso Sacconi e i ministri Brunetta e Romani. Appuntamento che, lo ricordiamo, doveva esserci ieri, poi annullato ufficialmente per il maltempo sulla capitale che non permetteva ai ministri di arrivare a Roma, in realtà a causa delle tensioni nella maggioranza sul lodo. La manovra, salita ieri nel suo impatto economico fino al 2014 a circa 50 miliardi di euro, resta intanto sotto la lente di ingrandimento del Quirinale. In particolare i dubbi del Colle sarebbero sulla soppressione dell'ICI e sullo stop alla riscossione delle multe sulle quote latte. Flash mob infine davanti al Senato su iniziativa di parlamentari e cittadini contro il taglio, a loro dire, da 4 miliardi al welfare e alla conciliazione. E da Roma è tutto. Grazie a Vincenzo Miglietta. E sulla manovra l'allarme che è arrivato dal presidente di Confindustria Emma Marcegaglia. Il nostro paese ha bisogno di tagliare la spesa pubblica, ha bisogno di riequilibrare i conti pubblici, perché se non lo facciamo noi diventiamo come la Grecia, anche se non siamo certamente la Grecia. Quindi noi dobbiamo tagliare la spesa pubblica, è un must, non piace a nessuno, ma questa è una cosa che dobbiamo fare. Noi abbiamo il dovere, tutti insieme, ragionando, e su questo io sono molto d'accordo con l'ambasciatore Vattani, non dobbiamo fare cose strane o che poi, come dire, nascono da compromessi tra diversi ministeri e con soluzioni che non stanno in piedi, però noi dobbiamo seriamente ragionare su come tagliare gli sprechi. Con tutto il rispetto delle agenzie di rating, noi siamo più rigorosi nelle valutazioni, a parlare così il presidente della Commissione europea Barroso in una conferenza stampa a Strasburgo. Mi dispiace molto, ha detto Barroso, della decisione di tagliare il rating del Portogallo. Ed ora le borse, il punto sui mercati, in diretta con noi Deborah Rosciani. Eh sì, effettivamente Moody's ha mosso notevolmente i mercati questa mattina, l'Europa si è svegliata di cattivo umore, ha proseguito la sua giornata con il segno meno. Poco fa c'è stato un tentativo di acciuffare la parità da parte di un paio di indici, ma adesso si ritorna di nuovo giù. Parigi perde mezzo punto, Francoforte meno 0,4, Londra meno 0,6, ma soprattutto oggi bersagliata dalle vendite è Piazza Affari, il FTSE MIB perde il 2%. È tornato a salire anche lo spread fra BTP e Bund, il differenziale di rendimento fra l'Italia e la Germania sulla scadenza 10 anni si è allargato a 213 punti base, tornando sui livelli prossimi ai record appunto delle scorse settimane. Le vendite oggi stanno travolgendo i titoli del settore bancario. A Milano chiaramente pesa il rischio sovrano che dopo la Grecia riguarda adesso il Portogallo, ma ovviamente le banche sono bersagliate dalle vendite anche per gli effetti delle misure contenute nella manovra economica che colpiscono il settore bancario ed assicurativo. Fondiaria meno 7,52, Monte dei Paschi meno 5,43, Unicredit meno 5, Ubibanca meno 4,57, potrei continuare a lungo, tutte le banche perdono in quest'ordine. Moody's si è abbattuto anche sul mercato valutario perché l'euro sul dollaro è sceso a 1,43,30. Maria Piera. Grazie a Deborah Rosciani. I prezzi di luce e gas restano più alti in Italia rispetto all'Unione Europea. Questo vale sia per le imprese che per le famiglie, anche se per queste ultime il divario si sta riducendo. È quanto emerge dalla relazione dell'Autorità dell'Energia al Parlamento, la prima relazione targata a Guido Bortoni dopo l'insediamento alla guida dell'Authority. E questa mattina Total Erga ha tagliato di 3 centesimi i prezzi, mentre IP, che ieri aveva ribassato il diesel, ha scelto di incrementare di 6 centesimi solo la verde. Sul territorio le punte massime si confermano sostanzialmente invariate a 1,643 euro al litro per la benzina e a 1,500 euro al litro per il diesel. Alcune esplosioni sono state avvertite a Nasr City, Mahdi e Muhandisen, quartieri

o in Grecia. In Turchia, attraverso delle imbarcazioni, grosse imbarcazioni, venivano condotte sulle coste italiane, soprattutto in Calabria, mentre dalla Grecia con i gommoni, e venivano fatti sbarcare ovviamente sulle coste del Salento. Una volta sbarcati in Italia, i migranti venivano condotti dall'organizzazione in altri paesi europei, tra cui Francia, Spagna e Portogallo. L'indagine era partita nell'agosto del 2010, dopo alcuni sbarchi e l'arresto in flagranza degli scafisti sulle coste del Salento. Giacomo Segantini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. A Roma la manifestazione contro la delibera AGCOM sul diritto d'autore. Vogliamo cominciare con un minuto di silenzio e invito tutti a mettersi il bavaglio che abbiamo distribuito all'ingresso. Così è iniziata la notte della rete, la manifestazione contro la delibera dell'AGCOM in materia di diritto d'autore che oggi verrà discussa dall'autorità. Fisicamente la manifestazione era a Roma, alla Domus Talenti, ma ha raggiunto l'Italia e il mondo attraverso lo streaming online con decine di migliaia di contatti. Il parterre dei relatori? Politici, artisti, blogger, imprenditori, giornalisti, giuristi, in sala o via Skype come Dario Fo. Siamo veramente in una nazione orrenda, io spero che sia soltanto un sogno, un orrendo sogno che stiamo facendo tutti quanti, e quindi bisogna darsi da fare veramente in un modo accanito, dobbiamo anche essere triviali nel nostro risentimento. Basta di essere eleganti. Tra i politici Emma Bonino, Ignazio Marino, Antonio Di Pietro. Sono fiducioso, malgrado tutto, che il Consiglio dell'autorità riuscirà a trovare una giusta e equilibrata soluzione, aveva scritto al leader dell'Italia dei Valori il presidente della AGCOM, Corrado Calabrò, ma Di Pietro lo ha attaccato nuovamente. Se la legge non è chiara, vieni in Parlamento, l'anomalia sta nel fatto che sai che non hai gli strumenti e ciò nonostante fai Ponzio Pilato. Se colpevole tanto quanto è colpevole Erode, perché non è che cambia granché se stai a guardare. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Sono tutt'altro che vicini la Juventus e Sergio Aguero. Secondo un quotidiano spagnolo, l'Atletico avrebbe rifiutato l'offerta della Juve di 32 milioni di euro. Ed era l'ultima notizia di questo GR24, il prossimo alle 14. GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.